voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Claudio Cardini, dalla Toscana del tessile al turismo sostenibile di Human Company, di Anna Marino. Toscana, già i turisti quando arrivano si aspettano i colori, si aspettano le vigne, si aspettano le colline, si aspettano l'arte e soprattutto si aspettano la buona cucina. Così Claudio Cardini, fondatore e presidente del gruppo Human Company, che opera nel settore del turismo open air, racconta l'immagine classica e intramontabile della Toscana, che riceve ogni anno più di 40 milioni di turisti, con circa 25 milioni di stranieri. Nato come Elite Club Vacanze Group dalla famiglia toscana Cardini-Vannucchi, il gruppo ha costruito nel tempo family park, villaggi, camping in town, ostelli e hotel. Nel 2016 Human Company ha contato 4 milioni di presenze, pari al 5% del totale registrato nelle strutture open air in Italia e circa 1.500 collaboratori tra stagionali e fissi, e gestito un business da oltre 90 milioni di fatturato, con un trend in crescita di anno in anno. Nel 2017 il gruppo ha deciso di riunire tutte le attività sotto il brand Human Company nel nome del soggiorno sostenibile, informale, a contatto con la natura e con l'uomo, aperto a tutti. Ma dietro all'immagine, spiega Claudio Cardini, ci sono persone che hanno imparato l'organizzazione del lavoro dal settore tradizionale della regione, il settore tessile. Io ormai ho 62 anni, tanti anni fa sono nato a Prato e come tutti i pratesi facevano stoffa, o in filatura, o in tessitura, o in orditura, ma io la mia origine è proprio di Prato e che come tutti i pratesi si faceva stoffa. Era un bel periodo, io sono orgoglioso di essere pratese e voglio raccontare perché tanti non si immaginano nemmeno cos'era. Tanti anni fa un imprenditore, l'industriale, raccoglieva l'ordine dall'estero, dalla Germania, dall'America e così via. E una volta che arrivava l'ordine all'industriale, lui aveva una serie di passaggi di conto terzi, cioè lui comprava la materia prima, poi andava la materia prima alla filatura e da lì alla tessitura, all'orditura, alla rifinizione, ma era tutto un lavoro a staffetta, nessuno poteva andare piano, tutti dovevano correre per arrivare velocemente alla produzione e alla confezione e alla vendita. E in famiglia è nata l'idea di impresa portata avanti con genitori e sorelle, nata da un piccolo campeggio e da una roulotte, come racconta Claudio Cardini. Quando sono arrivato all'età di 27 anni che facevo questo lavoro, ho pensato, ma è davvero tutto questo lavoro che io voglio fare tutta la vita? No, non è questo. Avevo una roulotte a Castagneto Carducci e da lì mi è scattata l'idea, insieme alla mia famiglia, di avere questo nuovo progetto, di cercare un terreno per fare un villaggio turistico. Mio padre ci ha insegnato solo a lavorare come matti, tantissimo. Tutto quello che abbiamo guadagnato nel primo periodo della mia infanzia fino a 27 anni l'ho messo sul piatto e l'ho giocato con un primo acquisto di un piccolo terreno a Filine Valdarno, dove c'era un piccolo campeggio che faceva a quell'epoca 19.000 presenze, ed è oggi quel campeggio fa 650.000 presenze, è una delle eccellenze italiane. E comunque sia io che i miei fratelli e sorelle abbiamo messo tutto il denaro che avevamo prodotto nel primo periodo della nostra vita per comprare questo 50% del campeggio. Poi, e questa è un'altra cosa pratese, dopo un anno e mezzo abbiamo firmato 6 cambiali da 100 milioni l'una, perché noi siamo di Prato e la cambiale è nata a Prato, e abbiamo, come dicevo, firmato le 6 cambiali pagando 100 milioni l'anno per l'altro 50%. È iniziata la nostra avventura. In tutti questi anni lo stile della vacanza è cambiato, ma anche il tempo dedicato alle ferie si è allungato fino ad oggi, in cui di nuovo si è trasformata in esigenza. Mio padre è andato in vacanza la prima volta, aveva 54 anni, mia madre 48, ma era normale, non era un'esigenza come oggi. Se io oggi a mia figlia gli dico tu per 5 anni non vai in vacanza, dice ma questo è impazzito. Oggi la vacanza è un'esigenza che a quell'epoca non c'era. Le famiglie come la mia erano una realtà. Quando ho iniziato questo lavoro nel 1982, la vacanza si intendeva tutti, anche noi in Italia, una vacanza lunga di 3-4 settimane. Oggi la vacanza non è diminuita come tempo, però si è frazionata. Si tende più ad andare tre volte, due, tre volte l'anno, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni. E questo è un po' più morde e fuggi, è più il weekend. Questo porta a degli svantaggi, ma anche a dei grandi vantaggi. Le vacanze sono poi diventate un mercato di riferimento per il gruppo, che rappresenta il 5,5% del comparto nazionale open air. Human Company prevede di chiudere l'anno con un fatturato di 110 milioni, registrando un aumento del 15,3% rispetto al 2016, un margine operativo lordo di 31,8 milioni e un numero di presenze nelle strutture ricettive di 4,1 milioni, a più 5,12%. E sul settore ha un peso rilevante la presenza di stranieri, come spiega Claudio Cardini, che con una battuta non parla di export, ma di import di turisti. Noi abbiamo sempre puntato molto al mercato anche straniero, perché è quello che offre la possibilità di avere un soggiorno più frazionato nello spazio della stagione. Noi italiani abbiamo iniziato da poco tempo ad andare in vacanza un po' più in bassa stagione, eravamo più focalizzati verso luglio e specialmente agosto, ecco, ma noi fin dall'inizio abbiamo cercato i mercati olandesi, inglesi, austriaci, tedeschi. Noi attualmente abbiamo più del 90% solo stranieri e un 10% italiani. È vero, noi non vendiamo bellezza all'estero, ma noi vendiamo bellezza in Italia. Ecoturismo, cicloturismo, agriturismo. Human Company segue i trend dei viaggi, costruendo villaggi e ostelli satelliti intorno alle città. E nel corso del 2018 prevede l'apertura di altri 4 o 5 villaggi e ostelli tra Veneto, Puglia, Sicilia e Lazio. Ma tutto parte dal gestire una semplice vacanza di famiglia. Si parte proprio da lì, dal fatto che la prima nostra esperienza, la mia famiglia, è stata a Filine Valdarno. Credo che pochissimi in Italia sappiano dov'è. È a 19 km da Firenze, è sulle colline toscane. E non c'è mare, e non c'è lago, e non c'è Dolomiti, ma c'è un'atmosfera straordinaria. Le campagne toscane, le colline toscane, i vigneti, gli uliveti. Infatti noi fin dall'inizio abbiamo puntato verso questo tipo di vacanza. L'agricoltura, l'atmosfera che è speciale, che non è quella del mare. L'atmosfera che ci porta a avere magari più natura, più sport, più cultura e più qualità nel cibo. Ed ecco qual è, secondo Claudio Cardini, il primo ingrediente dell'accoglienza. Glielo spiego. Per me, un direttore di una struttura turistica che rappresenta l'eccellenza è quando mancano poche ore alla fine di una vacanza. E non si basa solo su un report scritto dal cliente su Facebook o su altri mille diavoli di report. Quando il direttore va dal cliente e gli dice com'è stata la tua vacanza, e lì a tu per tu riporta a casa un bagaglio di errori e di non errori che ha fatto il direttore, è quello il contatto umano che deve essere fatto continuamente su tutte e 4,5 milioni dei nostri turisti. Prima che finisca la vacanza, poche ore prima, deve essere chiesto com'è stata la sua vacanza. Cambiare il nome non ha significato solo fare rebranding, ma soprattutto rilanciare il concetto di alleanza uomo-natura. Così Claudio Cardini spiega la svolta. Perché noi siamo nati tanti anni fa, 25 anni fa, con le CV Group e vacanze, e questa voglia di cambiamento, di dare una svolta, di cercare di aiutare anche le nuove generazioni giovani a avere un marchio più attuale, ma anche puntualizzando al 100% che oggi la risorsa umana è fondamentale per il successo di un villaggio turistico. Sì, noi possiamo essere bravi a costruire una grande piscina o avere un'ottima cucina, un bravo chef, però se non siamo circondati da collaboratori che pensano come noi, che la forza umana è la chiave del successo, praticamente siamo rovinati. Di recente il gruppo ha diversificato il proprio business, affiancando al ricettivo il settore della ristorazione, con in primo piano l'esperienza del mercato centrale. una formula vincente di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche italiane, iniziata nel 2014 a Firenze, nello storico mercato di San Lorenzo, e replicata poi a Roma presso la stazione Termini e nel centro commerciale I Gigli, a Campi Bisenzio. È il mercato dell'eccellenza del cibo. I mercati che noi abbiamo fatto a Firenze, a San Lorenzo o alla stazione Termini a Roma o ai Gigli nel centro commerciale, è l'eccellenza del cibo, ma anche lì è una cosa un po' speciale, perché noi creiamo questi luoghi di aggregazione e chi ci lavora dentro? Ci lavorano 22-25 artigiani che tutti i giorni, per tutto l'anno, fanno la stessa eccellente qualità del cibo. E quella è la carta vincente, perché mai un artigiano potrebbe fare una cosa che non è soddisfacente. E a sorpresa, a proposito di menù, non è la ribollita in cima ai pensieri del toscano Claudio Cardini, ma c'è una ragione. Io sono come mia madre. A mia madre gli piacciono tantissimo i dolci, a me gli piacciono i dolci. Io mi ricordo fin da bambino quando lei faceva la zuppa inglese, era la fine del mondo. Però devo dire che i cibi, quando sono più semplici, più genuini, sono i più buoni. Questa e altre storie, in anteprima, inedite o in versione estesa, ma anche idee e novità per l'impresa, potete trovarle sul sito radio24.it, cliccando sulla pagina programma Voci di Impresa. E curiosando nella sezione Extra, a cura di Anna Marino, potete scrivere i vostri messaggi e le vostre storie. Voci di Impresa è anche Voci di Piccola Impresa, su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa. A domenica prossima!